spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità di Irene Zerbini. Ancora buongiorno, 15 minuti dopo le 8 e a settembre ci pensavamo, in questi giorni si torna a scuola. Il diritto all'istruzione è sancito dalla Costituzione, non è per tutti però. Parleremo infatti con una mamma che ha segnalato a Repubblica come suo figlio disabile, diplomato alle medie con 10 lode, sia in realtà un problema per presidi e vicepresidi delle superiori. Questo è il nostro incontro delle 8:30. E poi parleremo di diritti, diritti dei lavoratori, diritti della clientela, diritti degli imprenditori, tutti elementi che si intrecciano intorno a un sorriso, proprio così, perché sorridere ai clienti può essere un parametro sul quale basare parte del salario. Voi che ne dite? Discuteremo proprio dello strano caso delle cassiere della Coop di Ferrara. Dalle 9 nel corso del nostro dibattito prenderete parte a questo anche voi con le vostre esperienze, con i vostri stimoli, riflessioni, spunti di vista, appunto al 349-238-6666. Questo è il numero a cui inviare gli sms. E poi c'è un numero di telefono 800-24-00-24 per gli interventi in diretta. E richiedere ai lavoratori di sorridere e basare anche questa valutazione, questo conteggio quasi dei sorrisi, e per stabilire la possibilità di un bonus, di uno stipendio integrativo, è una vessazione? È semplicemente il segno dei tempi? È qualcosa che nel 2013 è ora che si faccia perché siamo stanchi di musoni agli sportelli e alle casse? Da che parte state? Ne dibatteremo, non prima però di essere andati a trovare un'amica. Quest'ora uno sciorinare di inni nazionali. Ebbene, questo è l'inno portoghese. Bom dia, Manuela Paixão Redmond. Buongiorno. Manuela Paixão Redmond è la corrispondente che oggi ci racconterà come i portoghesi vedono l'Italia, cioè come gli stranieri in generale vivono questo paese. Sì, perché spesso scorriamo con le rassegne stampa internazionali sui titoli principali, ma che vengono letti, segnalati, visti e notati solo in occasione delle grandi situazioni e politiche e economiche che possono portare a chiedersi come è vissuto questo all'estero. In realtà loro ci osservano costantemente, perché c'è una tendenza al taglio dei corrispondenti stranieri in generale che non risparmia nessuno, dal New York Times al Wall Street Journal a testate autorevoli che hanno fatto la storia del giornalismo internazionale. Eppure l'Italia continua ad avere un numero nutrito rispetto e agli abitanti e al peso che questo paese ha a livello internazionale di corrispondenti che vivono qua. Manuela Paixão Redmond ci ha vissuto per circa 40 anni, dico bene, Manuela? Sì, praticamente sì. Ho vissuto l'Italia in un modo abbastanza lungo, ancora tuttora, e devo dire che per il Portogallo l'Italia è sicuramente un argomento molto interessante. Non c'è giorno che nei nostri giornali non ci siano delle pagine sulla politica italiana, ma anche e soprattutto sui personaggi italiani, sul modo di essere italiano. I portoghesi sono molto sedotti sia da quanto l'Italia ha offerto e ha dato al mondo dal punto di vista di varie cose, sì, delle cose molto serie, molto importanti come la politica, ma anche come della moda, della bellezza, della costruzione. Insomma, l'Italia è un argomento molto presente sia nella nostra politica che sia anche nella nostra, diciamo, vita di tutti i giorni, nella moda. Quali sono i nomi italiani? Scuole. Quali sono i nomi italiani più noti in Portogallo? Devo dire che ovviamente il nome di Silvio Berlusconi è un nome che sta sempre abbastanza citato nei giornali, anche nella radio, in tutti questi diciamo giorni. Alcune volte un po' di più, alcune altre volte un po' meno citato, ma è sempre un personaggio abbastanza interessante, perché più che lui sia affascinante o che sia un uomo politico molto interessante, non riescono a, cioè, rimangono, la maggior parte dei lettori portoghesi rimangono sorpresi come Silvio Berlusconi è riuscito ad andare avanti in tanti modi senza avere un punto finale, diciamo. Senza che ci sia stata una sconfitta o un isolamento politico e non solo giudiziario. Forse questa è la grande anomalia che tutti voi corrispondenti dall'estero, a prescindere dal paese che raccontate, segnalate. Cioè, altrove spesso tu e altri colleghi ci hanno detto da questi microfoni, altri giornalisti, altrove l'isolamento, la decadenza, prima che parlamentare, sarebbe stata soprattutto all'interno della sua forza politica che avrebbe preso le distanze, cioè sarebbe stato un imbarazzo questo quanto segnalato nell'anomalia delle procedure e della vita italiana. E tu hai raccontato tanto di Berlusconi, naturalmente, della politica. Ben 40 anni ti si sono avvicendati sotto gli occhi diversi fenomeni italiani, poi hai raccontato tanto del Vaticano e del Pontefice. Questa è la ragione per cui accennavamo all'inizio, ci sono così tanti corrispondenti stranieri che fanno base a Roma soprattutto, e già che coprono il Vaticano ne approfittano per segnalare situazioni di costume o politiche che possono essere interessanti per il paese che legge, che ascolta, perché tu hai lavorato tanto non solo in giornali come il Diario dei Noticias, ma in radio e televisioni, Manuela. Sì, giusto. Beh, perché l'Italia, come stavamo già dicendo, ha giustamente queste tre cose che sono molto importanti, no? L'Italia dal punto di vista di storia è per me e per il Portogallo sicuramente il paese, dopo forse la Francia, e la Germania dalla parte di vista di economia, ma dal punto di vista, diciamo, del giornale che è più letto, diciamo, se l'intellettuale ovviamente si occupa della economia e delle cose, ma la gente normale che compra un giornale tutti i giorni o che legge il giornale o che ascolta molto la radio, perché ascoltano anche molto la radio, si interessa moltissimo a questa Italia che da una parte li seduce perché ha una cultura, una bellezza, ha una raffinatezza che io trovo molto difficile in altri paesi, mentre d'altra parte abbiamo un Silvio Berlusconi che io non penso che in Europa sia possibile in qualche altro paese, anche a parte che fosse il Portogallo, sarebbe molto difficile trovare un personaggio come questo di Berlusconi, che riesce sempre a trovare un modo di fare un po' a secondo sarebbe quasi impossibile di immaginare in un altro paese. E quindi hai avuto materiale senza dubbio su cui cimentarti nei media in cui hai lavorato dall'Italia. Da una parte la politica e gli imperscrutabili misteri che la reggono, e dall'altra parte questa moda, questa raffinatezza, questi elementi che vengono segnalati soprattutto all'estero, tratti dalla vita quotidiana. Quando invece noi in Italia ci occupiamo di Portogallo, in generale è in una chiave economica, soprattutto ultimamente. Quando è che si è parlato tanto di Portogallo sui giornali italiani? Quando è stato declassato da Moody's, per esempio, a uno da due, e queste decisioni segnalavano un deterioramento delle finanze pubbliche del paese. Ora, tu che vai avanti e indietro da Italia e Portogallo, ci segnali un'inversione di tendenza? Ma sì, perché come al solito, no? Il giornalista va sempre a cercare quello che non è ancora conosciuto, quello che può fare una attenzione diversa da quella che sarebbe normale. Dunque, il Portogallo, che non è molto conosciuto perché noi stiamo alla punta dell'Atlantico, no? E ovviamente che un paese come quello, che è anche molto serio nella sua politica, ovviamente è più facile di andare a cercare nel punto economico che nel punto della cultura o nel punto dell'arte, che è sempre meno sviluppata che in quella dell'economia, perché il Portogallo non possiamo scordarci che se non fosse il fatto di appartenere anche alla comunità europea, sarebbe un paese che sarebbe rimasto molto indietro dal punto di vista dell'economia, perché non abbiamo mai avuto le fonti di possibilità di fare una grande economia da noi stessi, e fa più soffrire, ma che probabilmente è quello dove noi possiamo avere un ruolo un po' più importante, perché il resto, gli altri paesi europei hanno molto di più, cioè sia nell'arte che sia noi abbiamo, diciamo, dei punti di grande rilievo, ma non sono così grandi e così estensi come quelli che troviamo in Germania, in Francia, in Italia soprattutto. Quanti abitanti ha il Portogallo? Non siamo stati né di più né di meno, ma più di 10 milioni naturalmente. E quindi ti stiamo chiedendo uno sforzo opposto, cioè di raccontare qualcosa del Portogallo agli italiani, di farci la corrispondente. Cos'è che gli italiani non sanno del Portogallo e che secondo te meriterebbe una menzione? La cosa che io trovo che i portoghesi sono abbastanza accettano le leggi e non sono violenti. Cioè, la rivoluzione dei garofani è in qualche modo è sintomatico di questo atteggiamento che tu ci racconti. Cosa è successo? Non ho sentito prima. La rivoluzione dei garofani, come è stata ribattizzata? La rivoluzione dei garofani ribattizzata. È stata una cosa che io penso che in pochi paesi è successo così, perché non c'è stato nessun ferito, non c'è stato nessun morto e non c'è stato una rivoluzione che abbia messo in questione la tranquillità del popolo. Cioè il paese si è svegliato che aveva una rivoluzione tranquilla, che era fatta dall'esercito, perché è stato l'esercito che è stato traghettato alla democrazia in quel passaggio esattamente, importantissimo. Esattamente. Grazie, dobbiamo salutarci. Buon dia, Manuela Paixaur Edmont è la corrispondente che oggi ci ha raccontato l'Italia vista dal Portogallo. Torneremo tra pochissimo a parlare di diritto alla scuola e parleremo con una mamma che ha segnalato ai giornali italiani molti problemi per iscrivere suo figlio disabile alle scuole superiori. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. E ci siamo trovati così a leggere queste parole. 2013, qualche giorno fa, Repubblica, uno dei giornali a maggiore circolazione, tante pagine dedicate alla politica o a quel che resta della politica, e poi, dopo un po', trovi la vita vera, quello che succede nel paese, a volte nella pagina delle lettere al direttore. Sono la madre di un ragazzo disabile con problemi motori, ma senza alcun deficit cognitivo, che ha conseguito il diploma di scuola media con 10 lode e che vorrebbe continuare gli studi superiori. Si apriva così una lettera a firma Anna La Rosa, che abbiamo rintracciato a Catania. Buongiorno signora, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Vorrebbe continuare gli studi superiori suo figlio, quanti anni ha? Ha 14 anni, come tutti i ragazzi ovviamente, vorrebbe continuare, penso che abbia il diritto di continuare gli studi e il dovere anche di continuarli. Però questo sì, è abbastanza complicato, siamo già alla terza iscrizione al liceo perché gli è stata diciamo negata o resa quasi impossibile, perché i presidi o vicepresidi o i referenti al sostegno hanno ritenuto che il percorso di Francesco, mio figlio si chiama Francesco, non fosse adatto a lui in quanto appunto disabile. Io ho il coraggio di dirlo, cioè di dire, di verbalizzare ciò, il loro pensiero, ma loro ovviamente mi hanno aggirato in qualche modo fino ad indurmi ad un ritiro dell'iscrizione. Il diritto alla frequenza della scuola è garantito dalla Costituzione, la legge 104 del 92, articolo 12, comma 2, ne sancisce l'obbligo, e perfino le scuole private se ottengono la parità scolastica ai sensi della legge 62-2000 sono obbligate a realizzare l'integrazione scolastica. Eppure sempre più famiglie e studenti con disabilità di diverso tipo ottengono che questo diritto venga sancito in tribunale e non dove dovrebbe avvenire, cioè nei corridoi, in una segreteria, negli uffici di dirigenza di un normale istituto scolastico. Quello che colpisce di questa lettera, di queste parole che lei ha scritto, Anna La Rosa, è il tentativo di convincerla che proseguire gli studi non sarebbe stata cosa adeguata e necessaria, diciamo così, tra virgolette, per suo figlio. Un tentativo che avviene, come segnala lei, sempre nel chiuso, senza testimoni, esatto, all'interno di una stanza dove ci si incontra col genitore, così che un domani si possa nessuno dire: ma signora, possa mai dire. È stato tutto un malinteso. Esattamente, questa è l'impotenza che subiamo. È il dolore che subiamo. Ogni scuola ritiene che la propria scuola non sia la scuola adatta, per scrollarsi di dosso ovviamente un impegno, perché è chiaro che occuparsi di un ragazzo, di una persona disabile, richiede un impegno d'altro tipo, e quindi meglio non averlo. È una cosa appunto dolorosissima. Ci dobbiamo chiedere, quando ci sono delle scuole con altissima frequenza, con 1800 alunni, e non ci sia un disabile, non che i disabili non vogliano frequentare la scuola, i disabili non possono frequentare la scuola, e se alle spalle non hanno genitori che come me rompono le scatole in maniera incredibile, questi ragazzi vengono rinchiusi a casa possibilmente o non continuano il loro percorso educativo. Lei ha detto, si è autodefinita, quindi io lo ripeto, lei è una rompiscatole. Sì, una grandissima rompiscatole. Però altri genitori di ragazzi con qualche tipo di disabilità spesso invece hanno un atteggiamento che li porta a richiudersi, quasi a fare un passo indietro, perché sono troppe le porte che cercano di aprire e non riescono, e a volte le energie alla lunga vengono sì. meno. Non sono genitori meno abili di me, perché spesso qualcuno dice: ma sì, tu sei una madre speciale. Io non sono una madre speciale, non sono nata con un patentino di madre per disabile, sono semplicemente, mi ritengo una madre che ha degli strumenti per poter combattere l'ignoranza, e l'ignoranza sta proprio lì, in queste purtroppo tra le persone che hanno un ruolo decisivo nell'educazione di questi ragazzi. Lei che lavoro fa? I genitori sono impotenti, semplicemente non riescono a reagire, perché si convincono che quel percorso non è un percorso per il proprio figlio, semplicemente questo, subiscono ciò che io invece non accetto. Signora La Rosa, lei che lavoro fa? Io insegno, e quindi so benissimo come vanno le cose a scuola, come possono andare, se andare bene o andare male. E quindi probabilmente anche questo suo esserci dentro il mondo dell'istruzione la rende in qualche modo più sensibile. Ma non è l'unica, la sua lettera ha colpito molti. Ringrazio e saluto per il suo tempo l'onorevole Laura Coccia. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a voi e buongiorno anche alla signora La Rosa. Lei è una deputata del PD che legge e le è capitata tra le mani questa lettera. Perché l'ha colpita? Beh, mi ha colpito innanzitutto come disabile, perché insomma io penso che questa purtroppo non sia l'unica storia. Io mi ritengo una disabile molto fortunata, perché appunto nel mio percorso di studi non ho mai avuto questi problemi, ma credo che in Italia purtroppo non sia l'unico caso, come si diceva prima, e io ho il diritto e il dovere di dare una mano per quanto mi è possibile, e soprattutto di ascoltare tutti. Lei nel suo percorso personale, adesso a prescindere se possibile per qualche minuto dal ruolo istituzionale che lei ricopre, nel suo percorso scolastico proprio, ha mai incontrato atteggiamenti di questo tipo? Ma io ho una terraparesi spastica, che è una disabilità piuttosto seria, che colpisce tutti e quattro gli arti, ma per un percorso di fisioterapia che sono riuscita a portare avanti, il problema agli arti superiori non si vede più di tanto, però questo mi crea tantissimi problemi nel momento in cui scrivo o disegno. E io ho fatto il liceo scientifico, e per me riuscire a trasmettere le mie difficoltà ai miei professori è sempre stata una difficoltà immensa. Ho sempre trovato il muro di coloro che non riuscivano a comprendere che si potessero fare le stesse cose in maniera diversa. E questo non l'ha portata comunque a desistere. Lei ha compiuto poi anche studi universitari. Sì, sì, sì, io sono laureata in storia contemporanea con 110 e lode, con grandi professori, grandi storici italiani, e adesso sto per conseguire un dottorato di ricerca sempre alla Sapienza di Roma. E lei si è chiesta cosa sarebbe successo a me se qualcuno avesse ostacolato la mia formazione scolastica in maniera esplicita o in maniera paternalistica, come ci ha segnalato la signora Anna La Rosa, come sarebbe stata diversa poi la mia vicenda e la mia vita. Eppure l'Italia ha una legislazione all'avanguardia per quel che riguarda il diritto di inclusione e il diritto alla scolarità. Il problema è che in Italia molte cose rimangono sulla carta, perché poi soprattutto per quanto riguarda la disabilità si vive ancora, appunto come si diceva, con un senso paternalistico. Non si riesce a capire che soprattutto in presenza di disabilità fisiche bisogna andare oltre ed andare a sviluppare quelle che sono le diverse abilità, cioè quello che dicevo prima: io faccio le stesse cose degli altri ma in maniera diversa, quindi mi si devono dare semplicemente gli strumenti giusti per sviluppare quelle che sono le mie diverse capacità di ottenere lo stesso risultato. Ora lei, Laura Coccia, ha sentito che la signora La Rosa segnala questo atteggiamento da parte di alcune scuole, da parte di alcuni istituti. Sembra una sottolineatura un po' ridondante, ma diciamo che nella maggior parte delle scuole italiane e la preparazione e la sensibilità di chi le dirige porta delle realtà ben diverse. Però ci sono ancora questi casi. Qual è del problema per la scuola? Perché questo atteggiamento di chiusura? Ci sono state argomentazioni molto suggestive, molto pittoresche. Adesso gliene segnalo una: un liceo artistico, è stato detto alla madre di questo ragazzo disabile, ma l'arte non è una disciplina nella quale ognuno ha la possibilità di esprimersi liberamente. Perché lei pensava, forse un liceo artistico, no? Ci sarà più apertura, visto che c'è quella valorizzazione dell'individualità che dovrebbe essere richiesta proprio dai canoni di chi si occupa d'arte. E no, gli hanno detto, non potrebbe neanche suo figlio, essendo disabile, usare l'argilla, perché non può fare un naso o una bocca perfetti. E la signora ha provato a dire che forse si può accettare anche una forma astratta di quella bocca. Sembra un film, certo non ambientato nel 2013, ma questi dialoghi così sembrano surreali, no? Per cui la signora parla con questa preside e dice, vabbè, ci saranno anche forme astratte di bocca. Ma la vicepreside, inorridita, le ha risposto, ma no, non esiste la libertà d'espressione, questa è una scuola a indirizzo artistico. Per cui si arriva poi a delle argomentazioni un po' da arrampicata sui vetri, come si direbbe, per nascondere che cosa, quale problema ancora oggi la scuola italiana ha nell'accoglimento, nell'inclusione di persone con disabilità che poi dovrebbero essere un'opportunità educativa per tutti gli altri. Io credo che i problemi siano fondamentalmente due. Il primo è sicuramente una mancanza di insegnanti di sostegno che conoscano i problemi specifici delle specifiche disabilità, ma il problema più grave è una concezione della disabilità che è vista ancora come un ostacolo e non come una risorsa, viene vista come qualcosa di cui ci si deve vergognare, e questo ovviamente non è in tutte le scuole, non è in tutta Italia fortunatamente, ma ci sono delle sacche del paese dove questa sensazione della disabilità come un peccato da espiare purtroppo è ancora molto forte, e bisogna lottare ancora molto per riuscire a cambiare la mentalità e far capire che in realtà la nostra è una vita esattamente come tutte le altre. Lei è un certo, deputato. Io non correrò i 100 metri in 10 secondi, me ne farò una ragione. Guardi, non è l'unica. Ma lei è un deputato e dopo aver scritto e segnalato anche lei a questi giornali di grande circolazione come sia importante, in seguito alla lettura del caso della signora Anna La Rosa da Catania, come sia importante garantire questo diritto allo studio, soprattutto a questi ragazzi, ha ricevuto segnalazioni, ha ricevuto altre segnalazioni di questo tipo da altre parti del paese? Che reazione ha avuto da parte della gente? Ma io le posso dire, io già mi sono occupata di casi analoghi nel mese di luglio. Sempre per l'iscrizione, sempre in concomitanza con l'iscrizione. Sì, sì, sì. Sempre problemi inerenti alle iscrizioni di ragazzi con disabilità. E successivamente alla lettera no, non ho avuto altre segnalazioni, ma probabilmente perché appunto il periodo di iscrizione ormai è scaduto, per cui probabilmente chi dovesse aver trovato problemi di questo tipo ha rinunciato. Però io approfitto del vostro invito a questa trasmissione per lanciare un appello a tutte le famiglie che si vedono rifiutate un'iscrizione a scuola o pensano che gli si stia negando uno dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione. Ecco, io mi metto a disposizione di chiunque per ascoltare i problemi e cercare insieme di trovare una soluzione, perché non è da paese civile il respingimento di qualunque ragazzo all'interno della scuola pubblica. E tra poco vorremmo sentire anche da voi, 800 24 00 24, se avete avuto esperienze analoghe. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. E non ci aspettavamo ci fosse anche questo nei mille aspetti dell'attualità. Ancora respingimenti o tentativi di scoraggiare i genitori che iscrivono a un liceo un ragazzo con qualche forma di disabilità. Ovviamente, l'abbiamo detto, non dappertutto. C'è qualche ascoltatore che ci dice licenziamento immediato per questo tipo di presidi, licenziamento immediato per chi si comporta così. Ma è veramente l'unica risposta possibile, Laura Coccia? Ma io credo che ci sia appunto bisogno di un lavoro più a fondo che prepari i presidi, il personale della scuola a vivere la a conoscere i diversi tipi di disabilità, perché ad esempio io mi rifaccio sempre al mio caso perché è quello che evidentemente conosco meglio, ma le cerebrolesioni vengono sempre associate al disagio mentale o alla, e quindi viene sempre fatto questo 1+1, mentre in realtà solo il 10% dei casi hanno ritardi mentali, per cui questo può creare confusione in chi poi ha a che fare con noi, perché ci dà a prescindere come persone che hanno problemi mentali quando non è così. Per cui ecco, secondo me bisognerebbe fare un lavoro molto approfondito almeno sulle macro aree della disabilità per conoscere qual è la differenza sulla mentalità quantomeno, e sulla conoscenza, sì, e anche sulla missione. Per conoscere i vari tipi di disabilità, è chiaro. Perché quali sono le caratteristiche specifiche. Partendo da una missione molto umile, quando una conoscenza specifica non c'è, una richiesta d'aiuto anche alla famiglia, proprio per venire incontro con gli strumenti più adeguati. Anna La Rosa, lei che è la madre di questo ragazzo che si è diplomato dalla scuola media con 10 e lode, cos'è che l'ha ferito di più? Ferito questo che nel 2013 ci sia ancora questa discriminazione, proprio nei luoghi in cui si insegna l'orrore nei confronti della pulizia etnica, della discriminazione razziale, eccetera. E penso che sia orrendo proprio. Trovo una contraddizione proprio tra luogo scolastico, certo, che non è certo una palestra, diciamo, un club privato di qualunque tipo, e quello che poi si pratica, si fa. Ora, sembra una fotografia a tinte fosche anche dello stato dell'istruzione in Italia. In realtà non è tutto così. Ringrazio, saluto Marco Rossidoria, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. Noi l'abbiamo chiamata perché in realtà ce l'ha detto la signora Anna La Rosa, lei ha alzato il telefono e ha chiamato questa signora per prendersi un impegno, non certo personale ma istituzionale. Marco Rossidori è sottosegretario all'istruzione, a che cose di questo genere non accadano più. E quindi vorremmo capire con lei se questo impegno innanzitutto può essere preso pubblicamente dalla radio e quali sono gli strumenti che lei adotterà per evitare questo tipo di discriminazioni. Ma certo che viene preso pubblicamente, come è stato ricordato noi abbiamo una legge che va esattamente nella direzione contraria. Io ho fatto semplicemente il mio dovere, ho la delega alla disabilità per tutte le scuole d'Italia, ho una grande esperienza personale come insegnante in questo campo, anche delle esperienze personali, perché ho trascorso degli anni della mia vita in condizione di disabilità e quindi diciamo d'accordo con il ministro, ma già con il precedente ministro, noi segnaliamo e monitoriamo con gli uffici centrali e periferici tutti questi casi. Ci tengo a dire che sono casi, quando ci sono casi io non nascondo che l'allarme ci deve essere, perché per esempio non abbiamo avuto segnalati negli ultimi 2 anni casi nella scuola primaria, nella scuola media, la scuola superiore di primo grado. Li abbiamo ancora, come nel caso della signora La Rosa, nelle scuole superiori e nel momento del passaggio delle scuole superiori. Quindi sappiamo esattamente qual è la zona di criticità. Rossidoria, devo chiederle, questa soluzione proposta da un ascoltatore, cioè il licenziamento di chi, di presidi e vicepresidi, è questo il modo per cambiare le criticità? Non è questo, ora cercherò di spiegare qual è il modo. No, lo tenga un attimo per sé, perché ascoltiamo anche uno stimolo che viene da un ascoltatore, poi così potrà dare una risposta globale alla vicenda. Pronto, parlo con, in questo momento, un ascoltatore ci chiama. Mi sembra che lampeggi la casellina Parma. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. All'ascoltatore. Sì. Buongiorno. Lei è? Come si chiama? Io mi chiamo Alfonso Sollami, sono un tutor didattico di un corso di laurea in precisione infermieristica all'Università di Parma. Io volevo segnalare questa cosa, che secondo me occorrono dei criteri per poter accettare all'interno di corsi di laurea e o scuole professionalizzanti o comunque che danno delle abilità anche manuali o non alle persone con problemi di varia natura. Cosa vuol dire occorrono dei criteri? È chiaro che occorrono dei criteri, in che senso? Purtroppo questi criteri non ci sono, perché mi è capitato a me personalmente di avere nei corsi di laurea persone con gravi disabilità fisiche, un'artrite deformante o un qualcosa, che sono stati ammessi ai corsi di laurea in infermieristica, dove io come posso far fare assistenza a una persona con delle disabilità nelle mani che non può fare assistenza alle persone. Io non dico che, per carità, nella maniera più assoluta tutti hanno diritto di esprimere la propria personalità, però ci sono alcune. E quindi lei si è trovato con questo dilemma, sì, con questo imbarazzo. Alfonso, grazie. È un dilemma che non doveva certo risolvere lui di persona. Marco Rossi Doria, sottosegretario all'istruzione. Mancano criteri, manca una conoscenza specifica dell'arcipelago disabilità in Italia? Non è esattamente così. Noi abbiamo un esercito di 3.000 insegnanti di sostegno che integrano 210.000 bambini e ragazzi nella scuola italiana. Spendiamo come comunità nazionale, giustamente, è un grandissimo segno di civiltà di cui dovremmo vantarci. In Italia parliamo sempre dei nostri difetti, mai dei nostri pregi, 4 miliardi l'anno. Ci è stato detto in giro che abbiamo diminuito gli insegnanti di sostegno, non è vero, ne abbiamo 3.000 in più quest'anno e 4.000 l'anno scorso, sono 250 milioni, quindi noi investiamo tantissimo nell'integrazione ed è per questo che sono indignato e arrabbiato per i casi che sono minoritari, ma sono indizi di un fatto che non riusciamo a capire la filosofia che giustamente è stata ribadita sia dall'onorevole che dalla mamma. Signora La Rosa. Cioè, una comunità nazionale, pensi, che spende 4 miliardi da molti anni, da quando è stata istituita la legge, e che è considerata nel mondo l'unico esempio di comunità nazionale che integra tutti i disabili e tutte le fragilità, perché né in Francia, né in Germania, né negli Stati Uniti, né nei paesi avanzati esiste il fatto che tutti i bambini vanno a scuola. Ci sono delle attività sociali e delle attività educative, ma fuori dalla scuola, in tutti, sì, gli altri paesi. Che vanno a scuola insieme. Noi siamo il modello di riferimento, però ci sono queste macchie di leopardo, allora, queste macchie, diciamo così. No, ci tenevo a dire intanto questa cosa, perché sono sicuro, per esempio, che anche la signora... Francesco, diciamo, si è trovato bene alla scuola primaria, alla scuola media. E noi abbiamo in questo momento questo problema del passaggio alle superiori, a mio parere. E allora concentriamoci su questo, perché... Certamente sono già molto concentrato e ci concentreremo su questo, ma ci tengo a dire, perché era questo il punto, sì, che noi qualunque segnalazione, non solo all'onorevole, ma venga direttamente a me che sono responsabile, o una segreteria, intervengo attraverso i nostri uffici periferici, chiamo direttamente le autonomie scolastiche attraverso i presidi, lo posso fare perché sono pochi casi, certo, ma maggior chiaro, ragione Marco, perché sono casi difficili. Io penso che bisogna intervenire con fermezza. Marco Rossi Doria, grazie per questo impegno. Ascoltiamo un'ultima segnalazione, arriva da Arezzo. Pronto, buongiorno Antonio. Buongiorno. Devo invitarla alla sintesi, purtroppo, perché ci stiamo avvicinando al termine. Questo, semplicemente che spesso ai docenti si chiede una competenza in cose per le quali non vengono né preparati né formati. Pretendiamo che questi docenti, soprattutto di quelli delle scuole superiori parliamo, che spesso sono laureati in matematica, in filosofia, in scienze, che quindi non hanno nessuna competenza nella gestione degli handicap o delle disabilità, poi si ritrovino a doverle gestire e a gestirle anche bene. In contemporanea devono anche formare intellettualmente quelle che dovrebbero essere i lavoratori e gli uomini del domani. Grazie. Forse si pretende un po' troppo. Grazie. Chiediamo l'impossibile, ha sentito Anna La Rosa? Ai suoi colleghi insegnanti. Questo, secondo me, bisognerebbe appunto anche monitorare questo e dare una mano e formare, ecco, chi si deve occupare di disabilità. E ci ha fatto molto piacere riscontrare un'eccellenza quasi dell'Italia in questo campo. Esistono però delle zone d'ombra, dietro ogni zona d'ombra c'è una persona, c'è un ragazzo, c'è una ragazza che ha il diritto di studiare, di conseguire quella istruzione che sarà poi così fondamentale per la sua realizzazione personale. Quindi ringraziamo Laura Coccia, deputato del PD, Marco Rossidoria, sottosegretario all'istruzione, e lei, Anna La Rosa, madre di un ragazzo disabile, per aver condiviso con noi la sua esperienza. Poi parleremo dopo le 9, dopo aver dato la linea al GR, di sorridere ai clienti. Cioè, può essere un parametro sul quale basare parte del salario? Innovazione? È solo e soltanto così? Diteci come la pensate all'800 24 0024. A tra poco. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Can be a lot of fun. E dunque crescere può essere molto divertente. Learning how to walk and dance and run. E imparare a camminare, a ballare e correre. Grazie per questo regalo, è arrivato dalla regia, Peter Bescapè, Carmelo Lauricella, Luca Cremonese, tutte persone che ringrazio per aver reso possibile questa trasmissione in cui abbiamo parlato di disabilità, e mi hanno voluto regalare, ci hanno voluto regalare questo brano di Clifford Ward, For Debbie and Her Friend. È un cantautore inglese, Clifford Ward, che ha scritto una canzone dedicata a sua figlia Debbie. Era nata con una paralisi cerebrale e ci si chiedeva in questa canzone cosa si prova a passare la vita su una sedia a rotelle, a guardare gli altri che giocano dal mondo di immobilità, e alla fine sarà la figlia che insegna al padre come avere speranza, come andare avanti. Un episodio che abbiamo segnalato questa mattina grazie al coraggio e all'attivismo di Anna La Rosa, la mamma di un bambino disabile. Ride bene chi ride ultimo, e parliamo di sorrisi adesso, di sorrisi sul mondo del lavoro. 8 minuti dopo le 9, ancora buongiorno da Irene Zerbini. Stiamo per aprire i microfoni per capire come la pensate voi all'800 24 00 24 su una vicenda che sì, ha come scenario Ferrara, ma potrebbe essere accaduta un po' ovunque, perché riguarda la regolamentazione sul lavoro. Ciò che è lecito richiedere ai dipendenti, le cassiere in questo caso sono in prima linea ma non sono le uniche, e ciò che invece lede la dignità del lavoratore. Dall'altra parte però c'è anche un pubblico, c'è una clientela che vorrebbe fare il pieno di sorrisi, di cortesia. La vicenda, abbiamo detto, ha come scenario Ferrara. Ferrara andiamo, e lì ci aspetta la Coop di Ferrara, e per parlare di questo acceso scambio di opinioni tra la Coop, un'azienda in cui le relazioni sindacali sono tradizionalmente molto semplici, e i dipendenti, abbiamo scomodato Alessio Di Labio. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, Alessio. Buongiorno. Allora, lei è funzionario commercio e cooperazione della Filcams CGL. Cosa è successo alla Coop di Ferrara, o comunque alla Coop Estense? Allora, Coop Estense, azienda sì, non solo a Ferrara, lavora a Modena, lavora in Puglia, lavora in Basilicata. Ha diversi supermercati, ipermercati e diverse strutture. Diversi supermercati, sì, quasi 4.000 dipendenti. Siamo nell'ambito della trattativa per il rinnovo del contratto aziendale, che non si è bloccata solo per questo motivo, non è solo stato il sorriso, il problema che ci ha fatto discutere con l'impresa. Diciamo che il sorriso è stato ciò che ha fatto giustamente notizia, quindi non c'è il diritto alla scortesia o il diritto a sorridere. Siamo nell'ambito della redistribuzione del salario e abbiamo provato a confrontarci con l'impresa su quali dovessero essere i punti che permettono a un lavoratore di avere più salario o meno salario. La fermo un attimo, la fermo un attimo e la invito a fare un passo indietro per coloro che non avessero seguito questa vicenda che sì, è rimbalzata su diversi giornali, anche all'estero, da tanto ha fatto discutere sui sorrisi delle cassiere della Coop. Forse una semplificazione, però il dibattito è aperto, c'è uno scontro tra vertici e sindacati per una proposta di contratto che costringerebbe a sorridere e a ripetere anche delle frasi, sono state definite a macchinetta, grazie per aver scelto Coop ad ogni cliente. Insomma, qualcosa che ha suscitato l'insurrezione, forse un po' eccessivo, però senza dubbio il contrasto tra sindacati e azienda, e che a noi ha suscitato invece una riflessione su come cambiano le condizioni di lavoro nel 2013, perché questa è la richiesta della Coop, ma altrove sono altre le richieste che vengono fatte a lavoratori che una volta avrebbero suscitato decise resistenze e che invece oggi, per timore della perdita del posto di lavoro, vengono spesso digerite. Dall'altra parte c'è però la clientela che segnala anche sui blog e a margine degli articoli che si sono occupati di questa vicenda, ma meno male, ma ci fosse questa richiesta di cortesia un po' dappertutto e soprattutto tra i dipendenti pubblici. E allora richiedere di sorridere, richiedere di essere cortese col cliente è una vessazione o è una richiesta legittima? 349-238-6666, numero verde per le vostre telefonate 800-24-0024 e date queste coordinate. Ritorniamo con lei, Alessio Di Labio. La richiesta di sorriso è esplicitata in questo integrativo di contratto o semplicemente la Coop parla di cortesia, cioè chiede che i dipendenti siano cortesi, allora, con i clienti? Siamo in una cooperativa di distribuzione, quindi di consumatori, e quindi la cortesia di chi fa il venditore penso che sia un dovere contrattuale su cui noi non sindachiamo. Così come essere possibilmente sorridenti, direi, ora sorridere anche da consumatore mi lascia un po' perplesso. Qui il punto è se tra i vari aspetti, tra i vari parametri che devono determinare il salario del lavoratore ci possa essere anche la cortesia e il sorriso, e soprattutto qualora la risposta sia sì, chi la valuta, con quali sistemi, quale formazione c'è alle spalle, insomma. Allora mi sembra di capire. Coop Estense è un'impresa grossa da 4.000 dipendenti, noi siamo la FISCA CGL, l'associazione maggiormente rappresentativa, la discussione evidentemente non è stata solo sul sorriso, insomma la trattativa è stata molto più ampia, si basava prevalentemente sul costo del lavoro e su come redistribuire. E su certi orari, aperture, disponibilità di orari anche domenicali. Però mi sembra di capire, Alessio Di Labio, dunque mettiamo dei puntini su lei, nonostante faccia sensazione, abbia colpito l'aspetto del sorriso, in realtà la posta in gioco era leggermente diversa e voi del sindacato, non c'è solo la CGL coinvolta in questa trattativa, mi sembra che più o meno abbiate parlato una voce, siete abbastanza critici, c'è anche la CISL Fisascat, sulla discrezionalità di valutazione di certi parametri, sui rischi che questo potrebbe comportare nella determinazione, cioè sull'agganciare il salario a decidere se questa persona ha sorriso abbastanza o meno, è cortese o meno. È il parametro di valutazione che mettete in discussione, dunque. È il parametro di valutazione che mettiamo in discussione l'eccessiva discrezionalità. Considerate che stiamo parlando di una platea di lavoratori che guadagna una media di 600-700 euro al mese, quindi parliamo di una platea di lavoratori prevalentemente part-time, e quindi ciò che c'è da redistribuire in più non è che siano cifre da rendere ricco nessuno, quindi il primo problema per noi sindacato è stato: ok, nel momento in cui devo redistribuire quel po' che in questa fase l'azienda riesce a mettere sul piatto, cosa prendo in considerazione, come lo redistribuisco? C'è è un contratto quindi migliorativo che state discutendo, un contratto migliorativo del contratto nazionale, c'è cioè un'integrazione. Un contratto migliorativo del contratto nazionale, in realtà su questo istituto, questa parte di indennità variabili, chiamiamole così, sono sostitutive di indennità fisse o livelli di inquadramento, comunque di paga base che solitamente viene riconosciuta in altre imprese. mese. Quindi non più la professionalità perché ti ho assegnato una mansione, ma la professionalità perché l'hai svolta, l'hai espressa in un certo modo. Domenico De Masi, buongiorno, la interrompo un attimo, Alessio Di Labio avrà modo naturalmente di tornare a parlare. Voglio salutare un professore di sociologia delle professioni all'Università La Sapienza. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Professore, uno scenario interessante o inquietante, come lo vive? Ma è meglio sorriderci sopra come dovrebbero fare queste cassiere, tutto sommato. No, io credo che un cliente, quando deve scegliere un negozio dove fare acquisti, sceglie sulla base della qualità dei prodotti, del prezzo, ma anche del modo con cui è trattato. Di solito il modo con cui è trattato viene definito dalla bellezza del negozio, dal tipo di musica che si ascolta e da come si è accolti, ovviamente. Io credo che non ci sia nulla di male che l'azienda chieda alle commesse di dire alcune frasi precise. Su questo credo che l'unificazione, diciamo, delle frasi da dire per certi aspetti, ovviamente, soltanto per esempio all'inizio, come quando noi vogliamo che una telefonista ci dica buongiorno, sono della ditta X o come si chiama, questo sia senz'altro possibile. Per quanto riguarda il sorriso, quindi non si devono sentire scimmie ammaestrate, come ha segnalato qualcuno. Saranno tre parole, non di più, su tante che potranno dire, non è che dovranno dire tutte le stesse cose in qualsiasi momento, soltanto un inizio, immagine, una fine del rapporto verbale con l'acquirente. Per quanto riguarda il sorriso, più che sorriso si tratta di un comportamento complessivo, immagino, che fa parte dell'estetica del lavoro, dell'estetica delle buone maniere e che incide sulla variabile dello stipendio, e credo che questo sia ultra legittimo. Il fatto che si tratti di lavoratori part-time non toglie nulla, cioè non è detto che il lavoratore part-time debba essere sgradevole o debba essere maleducato. Io credo che tutto sommato si richiede quello che il consumatore vorrebbe, cioè il cliente vorrebbe, essere trattato bene da persona intelligente e civile, con un minimo di cortesia, in modo che quando spende dei soldi non se ne penta del tutto. Non c'è niente di scandaloso, dunque, secondo lei, nel fatto che un'azienda, in questo caso la Coop, ma potrebbe essere qualunque altra azienda, chieda di sorridere, di trattare, perché è esplicitato. Ma non credo che sia sorriso, sarà un comportamento complessivo di gradevolezza e di simpatia. Bisogna stare attenti, perché altrimenti poi le cose travalicano anche sull'aspetto fisico, allora bisognerebbe essere per forza belli, per forza alti di un certo tipo, o per forza biondi o per forza blumi. Io credo che si tratti di una cortesia complessiva che certamente rende più gradevole il rapporto con l'azienda in cui vado a fare degli acquisti. Come ha sentito, professore, dal sindacalista che oggi è con noi in trasmissione, non c'è solo la richiesta di questo tipo di prestazioni, ma ci si aggancia il salario integrativo. Quindi quello che il sindacato contesta è perché deve essere determinato da parametri soggettivi questa fetta consistente della busta paga. Perché la parte variabile di un salario è variabile proprio perché è soggettiva, cioè c'è una parte della retribuzione che è fissa e riguarda la sostanza della mansione e poi una parte variabile che è commisurata al comportamento del lavoratore, ma è come in questo caso la parte variabile non può che essere agganciata al comportamento della cassiera in questione, dalla sua cortesia e così di seguito. Questo si può giudicare benissimo, non è mica difficile capire se una persona è sgarbata o se una persona è gradevole. Alessio Di Labio, ha sentito? Si può giudicare, non è difficile capire quali siano le componenti che poi vanno a rimpolpare la voce cortesia. Ma cosa richiede esattamente questo contratto? Lei che ha il testo di fronte a sé, parla di sorriso, di cortesia in generale? Come dicevo all'inizio, limitare la discussione su un contratto integrativo al sorriso, dice bene il dottore, è fuorviante. Il sorriso è solo uno degli elementi che vengono citati in un aspetto complessivo che parla appunto di cortesia e di comportamenti in generale sul luogo di lavoro. Due precisazioni. Uno, l'integrativo partiva, e forse questo ha fatto un po' meno notizia in questa fase, ma era il problema principale, il motivo per cui non abbiamo trovato l'accordo, non certo per il sorriso, partiva dal risparmio del costo del lavoro. Quindi siete ancora senza contratto? Costava 10 e questo integrativo in futuro dovrà costare 5. Dopodiché questo 5, una volta che abbiamo pattuito che è meno, come lo redistribuiamo? Come lo distribuiamo? E quindi siete ancora senza contratto, Alessio Di Labio? Questo, a differenza di quello che diceva... Di Labio, siete ancora senza contratto? Siamo ancora senza contratto, ma a differenza di quello che diceva De Masi, non parliamo della parte variabile. Parliamo di sostituire quelli che vengono chiamati i livelli di inquadramento sui contratti nazionali, quindi la retribuzione, parte della retribuzione base del lavoratore, di sostituirla con una parte variabile in cui viene misurata la professionalità espressa. Qui forse c'è l'innovazione e da parte anche nostra anche la volontà di sperimentarla. Dopodiché, quando abbiamo detto sì, bene, sperimentiamola, però proviamo a ridurla, proviamo a renderla il più possibile oggettiva e a confrontarci su quali sono i parametri di riferimento. Un confronto che oggi non possiamo fare in diretta perché abbiamo più volte sollecitato il responsabile rapporti media e relazioni esterne della Coop Estense, ma ha preferito evidentemente non presenziare o comunque non rispondere ai nostri solleciti. Sentiamo anche come la pensate voi, insomma è legittimo o no richiedere alle cassiere non solo di sorridere, qui parliamo di cassiere ma si chiede un pacchetto cortesia un po' a tutti coloro che lavorano alle Coop e soprattutto agganciare lo stipendio a questo tipo di prestazione o è come hanno lamentato alcuni lavoratori un contratto non degno di esseri umani, noi non siamo scimmie ammaestrate. Pronto Laura, buongiorno. Sì, buongiorno Irene, volevo soltanto dire questo, è legittimo chiedere la cortesia, il sorriso alle cassiere o comunque a tutte le persone che gestiscono la clientela. Il punto è che, due cose fondamentali, in Italia nel nostro mondo manca la cultura del servizio. Se tu vai nei paesi anglosassoni trovi un livello di accoglienza che è completamente diverso. Due, c'è una dequalificazione di questi mestieri che sono importantissimi ma che in realtà hanno un ruolo sociale vitale. E terzo, i sindacati dovrebbero scendere dai loro piedistalli ideologici perché uno, stanno frenando questo paese, sono una delle cause di freno in questo paese, due, dovrebbero incentivare la cultura della formazione a questi mestieri per far sì che le cose vadano meglio. Laura, lei che lavoro fa, scusi? Allora, io in questo momento purtroppo non lavoro, però mi sono occupata di formazione e ho lavorato appunto per le grosse reti di vendita, quindi so che cosa vuol dire, so anche il livello di frustrazione delle cassiere, però ci sono i metodi, ci sono i modi per far sì che questo lavoro che è importantissimo sia reso più leggero e che comunque se vuol dire vale il principio che se io faccio bene il mio lavoro esisto di essere retribuita di più della mia collega che magari incassa mastica chewing gli sto facendo degli eccessi oppure non guarda nemmeno in faccia al cliente quando passa alla barriera. Lei chiama da? Questo. Lei chiama da? Dalla provincia di Roma. Grazie mille Laura per questa analisi, poi l'ha sciolto in punti, tre punti che naturalmente sottoporremo anche ai nostri interlocutori. Continuiamo però a sentire come la pensate voi, numero da chiamare l'800 24 00 24. Pronto, buongiorno. Parla con me? Sì, okay. Con lei, vabbè, credo. Sono Michele della provincia di Cuneo. Salve, salve Michele. Allora, io sono 30 anni che faccio l'artigiano e ogni tanto mi capita di andare negli uffici pubblici. Sì. Ecco, volevo solo dire la differenza che c'è fra il personale degli uffici pubblici pagati dallo Stato e quelli della Coop. La paga prima cosa 1200 euro e 600 euro. E bisognerebbe dire allo Stato che insegna ai suoi dipendenti, specialmente a lunedì mattina, di essere cortesi, non la Coop. La Coop fa presto a farlo perché basta che aumenti leggermente la paga per poter vivere. Bisogna chiederlo allo Stato. Cioè lei invoca questo tipo di policy e che vengano adottate anche negli uffici pubblici perché ne sente il bisogno da utente. Specialmente. Specialmente negli uffici pubblici. Negli uffici pubblici e nelle questure, queste cose lì, quando uno deve fare qualcosa. Ha visto con che faccia la guardano, come si tratta la gente? E allora, ci sono molte segnalazioni, ci sono molte segnalazioni in questa direzione, si parla anche di uffici postali e di altri polverosi uffici della pubblica amministrazione. E io capisco quelli della Coop che al lunedì mattina ti trattano male perché a 600 euro al mese, abbia pazienza, ma non è la Coop che deve dirgli voi dovete comportarvi bene, deve solo aumentare anche solo di 200 euro, 300 euro la paga, che è normale, che è giusto, e vede che si comportano meglio. Automaticamente. I dipendenti pubblici, abbia pazienza, però sembrano programmati per trattare male la gente. Grazie mille, grazie a Michele, ce lo segnalava da Cuneo, ma anche da altre province ci sono osservazioni più o meno su questo tono. Buongiorno Francesco Mitarotonda. Buongiorno. Scusi questo mio incespicare sul suo cognome. Lei è responsabile didattico di TAM, Turnaround Management. Cioè, cosa fa lei? Noi facciamo prevalentemente formazione manageriale e facendo questo a vari livelli organizzativi, quindi da responsabili a venditori, a cassiere di supermercato, come dicevate prima, facciamo dei progetti formativi e ci siamo occupati frequentemente di organizzare, progettare e fare formazione sul tema della cortesia. Ma la cortesia è un elemento rilevante anche alla fine per l'utente finale, per scegliere se avvalersi di quell'organizzazione o anche di un'altra, o comunque la cosa più importante è sempre il prezzo, ciò che si spende. Nel caso di grande distribuzione uno va in un supermercato perché spende meno o anche perché sono più gentili coloro che avranno a che fare con lui? Se mi consente una premessa, diciamo che la crisi mette in atto dei comportamenti innovativi. Se c'è crisi noi andremo a cercare qualcosa di alternativo per spendere meno, per avere di più con meno risorse. Questo ci porta a conoscere, scoprire esercizi nuovi e quant'altro. Succede anche che facciamo anche tanta strada per vedere che non abbiamo avuto un vantaggio rilevante. Allora, che cos'è la cortesia? A nostro avviso, la cortesia è una leva competitiva, cioè qualcosa che tu trovi, c'è qualcuno che fa qualcosa in più che non te l'aspetti e c'è un ricordo che rimane per anni. Allora, io sono molto interessato ad entrare in un bar, in un negozio, in un posto, si parlava prima anche di servizi pubblici, ma non vorrei trovarmi in un posto dove un giorno mi trattano bene e l'altro giorno, siccome la cortesia è un fatto quotidiano legato alla disposizione della persona, mi trattano male. Questa cosa mi genera disorientamento. Ma questo va da sé. La tematica è oggi, ci chiedevamo, può spegnere la radio, Francesco Mitarotonda? Io non ce l'ho. Sento un rientro in cuffia. E noi invece ci chiedevamo quanto questo elemento della cortesia, primo a lei devo chiedere, possa essere insegnato e come si fa a insegnare la cortesia e quanto possa essere anche agganciato poi al salario, alla paga che un lavoratore riceve. Lei viene chiamato, immagino, da aziende per formare i dipendenti. Noi abbiamo fatto alcuni progetti, uno molto grosso in una rete distributiva con tantissimi punti vendita, e siamo partiti identificando la cortesia nei confronti del cliente. La cortesia nei confronti del cliente è una cosa che si può progettare. Noi sosteniamo che cortesia deriva da corte del re. A corte ci si comporta in un certo modo. Quindi ci devono essere delle cose di un certo tipo e le persone si comportano in un certo modo. Questo rende l'ambiente piacevole, quindi differente da gentilezza, che è un requisito individuale. Quindi si progetta il che cosa vogliamo che accada, quali sensazioni noi cerchiamo di far emergere nel cliente che entra in un posto. Tra parentesi dico, spesso le aziende spendono un sacco di soldi per fare un format rivoluzionario, emozionante e così via, e l'impegno per la formazione rimane a margine, senza dubbio. Assolutamente. Ma lei ha incontrato resistenze da parte dei lavoratori, visto che è entrato in questa grande distribuzione per formare i dipendenti, ha incontrato resistenze a questo tipo di introduzione della cortesia standardizzata? Non più di tutti gli altri programmi di formazione, nel senso che le persone sono sempre un po' dubitabonde, sono sempre sospettose quando li metti in aula per dire loro delle cose, quindi vuoi cambiare loro i comportamenti, ma parlando di cortesia tutti identificano il potenziale altissimo di ritenzione della clientela. Tutti noi vorremmo essere trattati come dice la cortesia, e quindi è facilissimo l'aggancio alle persone. Uno slogan che noi abbiamo coniato: ci impegniamo a mettere passione nel lavoro per produrre un servizio che noi stessi vorremmo ricevere. Grazie, e naturalmente ci interesserà anche approfondire meglio come si trasmette questa cortesia o questa formazione alla cortesia, ma chiedere di sorridere, e quindi, come hanno segnalato alcune delle cassiere della Coop di Ferrara, di essere semplicemente testimonial di un dentifricio quasi o scimmiette ammaestrate, e agganciare la paga. Avete sentito quale è la paga base e come questi lavoratori appartengono al segmento part-time? È qualcosa che può essere vissuto anche come una vessazione, o è semplicemente il minimo che si debba chiedere a chi fa un lavoro di questo genere? Continueremo a parlarne e torneremo insieme tra qualche istante. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Va tutto bene, questa è la sensazione che si deve trasmettere ai clienti. Siamo qui per servirvi e per rendere anche l'acquisto di un semplice prodotto da casa un'esperienza piacevole, ma non tutti i lavoratori ci stanno, soprattutto non tutti i lavoratori ci stanno ai tempi della crisi, dove i salari si erodono sempre di più e la richiesta di prestazioni sfocia, varca i confini di quello che era tradizionalmente delineato. E fin dove si stanno spingendo questi datori di lavoro? Noi stiamo affrontando oggi l'esperienza della Coop di Ferrara, ma sintomatica di uno spostamento di questi paletti, per cui al lavoratore viene chiesto di fare qualcosa di più, di farlo anche meglio, e alcuni senza dubbio lo sottoscrivono, ma d'altra parte non accettano che le valutazioni siano troppo soggettive, oppure semplicemente un prezzo da pagare in un periodo di passaggio e poi verrà acquisito come una richiesta legittima e normale, un po' come avviene all'estero. Ci segnalano un dibattito che nei paesi anglosassoni si è spento qualche decennio fa, non c'è nemmeno da discutere: se qualcuno non ti tratta bene chiami il superiore e semplicemente ti fai valere. Voi come la pensate? 349 238 6666 oppure 800 24 0024. Andiamo in Liguria. Buongiorno Marco. Sì, buongiorno a lei. Buongiorno. Dalla Spezia, dico bene? Sì, dalla Spezia. E come va lì con la grande distribuzione? Cortesia, sorrisi? Lei da che parte sta? No, io non sto da nessuna parte, in questo senso. Che premesso che la buona educazione è un presupposto che dovrebbe informare i rapporti civili in qualsiasi tipo di società. Questo va da sé. Per quanto riguarda invece i sorrisi, io avrei due osservazioni da fare. Uno, che stiamo tutti contribuendo a creare un mondo inautentico. Io sono infastidito quando capisco che dietro un sorriso c'è una forzatura, quando mi chiama qualcuno da un call center e mi chiama amichevolmente come se ci fossimo sempre frequentati. No? Ecco, la seconda cosa è che poi se i dirigenti della Coop vogliono che la gente sorrida, che è a lavorare lì, non cerchino tutti gli anni di erodere parte dei loro diritti, di comprimere i loro salari, di aumentare gli orari di lavoro, no? Facendo magari stipendi principeschi alla dirigenza. Ecco, trattino meglio i dipendenti e vedranno che sono più sereni, che sorridono di più quando sono lì alla cassa. Io ogni tanto mi fermo a parlare con le cassiere della Coop, perché evito di passare alle casse automatiche, ovviamente, avere il rapporto umano, per salvaguardare i posti di lavoro, quindi evita la macchinetta, così, e passa di lì apposta. E cosa le dicono? No, le cassiere della Coop, che sono la gente come me, che condivide i miei problemi, che si ferma, naturalmente anche loro hanno da rispettare i tempi, quindi intanto che lavorano, però scambiano due chiacchiere in maniera serena. Ecco, sicuramente quello che emerge è che non sono contenti dell'ambiente di lavoro che si è venuto creando all'interno della Coop. E lei dice basterebbe un incentivo, un rispetto maggiore anche dal punto di vista salariale, certo. E non ci sarebbe bisogno di richiederlo per contratto, quel certo, famoso sorriso. Certo, questo è quel sorriso, deve essere il frutto di un lavorare sereno, non di un lavorare sempre sotto minaccia, di un lavorare oppresso. Non la... Ecco, allora sarebbe anche il sorriso sarebbe più autentico. Più autentico, grazie, grazie per questo invito alla genuinità. A Marco, dalla Spezia, a Roma, pronto, buongiorno, come va a Roma? Eccomi. Sì, Barbara. Barbara, buongiorno. Buongiorno, io volevo soltanto dire, abito a Roma, livello di maleducazione estremo, tutti i negozi pubblici, privati, ricordo l'aeroporto internazionale di Fiumicino, quando si va a prendere il caffè è una cosa disgustosa. Allora, io volevo soltanto portare l'esperienza degli Stati Uniti, tutti noi siamo stati nei vari locali, nelle varie attività sì. commerciali, e chiudono tutte le volte che una persona va a comprare una cosa, comunque con una frase che è Have a nice day, che è una frase molto sì. semplice, che però ti lascia... Have a nice day, sia buona la tua giornata, abbi una buona giornata, però c'è chi dice, Barbara, è inautentico questo, è una formula così di rito, allora, svuotata da ogni significato, quindi meglio questo che il musone. Allora, questo è vero, è chiaro che l'educazione dovrebbe essere alla base di tutto, questo tutti quanti noi lo riconosciamo, quando però questo non è possibile, perché per vari motivi, è necessario che il datore di lavoro, secondo me, applichi delle misure. Questa della COP, che tra l'altro stiamo parlando della COP, che secondo me è il livello di eccellenza nell'ambito della grande distribuzione, perché tutti gli altri sono assolutamente peggiori, lì c'è un'etica, c'è un'attenzione al consumatore, quindi stiamo parlando dell'eccellenza dell'eccellenza. Io credo che sia giusto che COP, che è attenta ai propri consumatori, voglia esigere un trattamento diverso da parte dei propri collaboratori. Lo so, il mondo si distringe, è chiaro che la persona che ha detto che bisogna pagare meno i dirigenti e più i dipendenti, io sono assolutamente d'accordo, è chiaro che questo è un tema che sta sopra le nostre teste, lo sappiamo però tutti. La cortesia è auspicabile, è importante. Grazie a Barbara, 800 24 00 24. Torniamo al sindacalista Alessio Di Labio, ha sentito sì. diversi stimoli e diversi anche apprezzamenti riguardo alla vostra azienda, ma è vero che le relazioni sindacali sono sempre state serene fino ad oggi? Sono sempre state buone relazioni sindacali, poi come sempre siamo in parti contrapposte, ogni tanto si discute e ci si contrappone, però è un'impresa che investe molto sul personale, da questo punto di vista non si può negare quelle virtù che diceva poco fa l'ascoltatrice, sì. l'ascoltatrice che è intervenuta. Dopodiché c'è un altro tema, sono comunque imprese che hanno una struttura gerarchica, consentitemi il termine patriarcale, molto rigida, piramidale, e sono comunque imprese in cui i lavoratori hanno un ruolo molto esecutivo. Credo che, se la vogliamo chiamare cortesia, ma in generale l'atteggiamento disteso, rilassato, felice e comprensivo del consumatore, come deve essere verso il consumatore, perché sono d'accordo con tutti quelli che dicono che è inaudito, no? Essere trattati male da chi... sì, quindi questo è chiaramente un principio che riconoscete. Però la motivazione per me, lo diceva prima il Francesco del TAM, cioè la formazione, quanta formazione si fa, cioè quanti strumenti si danno a questi lavoratori per essere non cortesi in modo meccanico, ma per saper servire il cliente, quanto partecipano alle scelte organizzative dell'impresa in modo tale che possano sentirsi a quel punto stimolati a vendere di più e quindi a servire meglio il consumatore. Secondo me è un po' più ampio, il sistema semplicemente premiante, cioè dare semplicemente dei soldi in più ha un limite, l'organizzazione del lavoro è complessa, in questo c'entra proprio l'organizzazione dei turni di lavoro, quando nel commercio si richiedono flessibilità enormi, lavoro domenicale in continuazione, rientri con doppi turni spezzati, straordinari all'ultimo momento e via dicendo, è evidente che lo stress da lavoro aumenta e quindi il sorriso diminuisce. Ecco. Ma cos'è che i lavoratori, sì. le chiedo, cos'è che i vostri iscritti hanno mal digerito soprattutto, perché abbiamo capito da quello che si è scritto su questa COP di Ferrara che tanto è stato frutto di pura fantasia, si è parlato di sciopero del sorriso, giornate in cui le cassiere non avrebbero sorriso a nessuno e ho verificato telefonando in giro, insomma questo è stato proprio pura invenzione. Ma cos'è esattamente che i vostri iscritti vorrebbero? Cioè vorrebbero che non fosse richiesto loro di sorridere, che non si entrasse in questi ambiti, o che semplicemente ci fosse più formazione, o che la valutazione del loro comportamento non andasse poi a incidere sulla busta paga? Quali sono le richieste dei dipendenti, degli interessati? Il tema è stato lungo, il confronto con gli iscritti e con i lavoratori tutti, non solo gli iscritti alle organizzazioni sindacali, dura da tempo e le opinioni, i pareri, i contributi che abbiamo avuto in questo periodo sono stati molti, a volte anche contrastanti, tra quelli più ci faccia qualche esempio. La posizione che abbiamo preso come organizzazione sindacale è stata innanzitutto quella di avere un atteggiamento molto laico sul tema e quindi di provare a confrontarci, almeno in queste ultime fasi di trattativa, di provare a mettere sul tavolo quello che c'è e proviamo a dire bene, vediamo cosa può andare bene e cosa no rispetto anche a quello che ci hanno detto i lavoratori. E quindi da lì è uscito fuori, il problema della discrezionalità, cioè alcuni parametri previsti, alcuni riferimenti previsti sono eccessivamente discrezionali. Ce n'è uno che parla di sobrietà di comportamento. Cos'è la sobrietà di comportamento? Chi valuta se ho avuto un comportamento sobrio? Rispetto a quali parametri? Cioè quando io ci metto del salario sopra, devo stare attento a queste cose, non posso parlarne semplicemente così perché ritengo condivisibile che in un supermercato ci sia un comportamento sobrio, e quindi provare a pulire, diciamo così, la proposta dell'impresa da tutte queste cose. A proposito di pulire, pulizia del grembiule anche si è richiesto. Sì, si è richiesta questa un pochino più ovvia, si è richiesta l'igiene complessiva per come ci si presenta al lavoro, sì. E anche questo ha fatto imbestialire i lavoratori, cioè questo tipo di richiesta esplicita? Qui, non vorrei che passasse il messaggio che un lavoratore può andare con la divisa sporca, unta, a vendere magari alimenti, cioè lì ci sono regole sull'HCCP, sì. Cioè ci sono regole sulla... Che non sono a discrezione del dipendente, cioè il dipendente non può decidere di andare con un grembiule sporco in una macelleria, il dipendente deve andare con un grembiule pulito, e quindi quando poi metti le modalità in cui tieni la divisa, a quel punto che significa? Chi si sta valutando cosa? Ecco perché diventa un problema, perché quello è un dovere, punto e basta. Insomma, avete trovato i termini di queste richieste un po' offensivi? Della ne dignità. Abbiamo provati, ma ora offensivi no, non penso che siano offensivi, penso che siano stati spinti dalla volontà di migliorare complessivamente il servizio al cliente. Però alcune sensibilità sono state ferite. Essendo un tema di trattativa, noi rappresentiamo una parte diversa da quella che rappresenta l'impresa e la sintesi delle opinioni deve far uscire appunto il risultato migliore. Quella era la proposta tutta spinta dal punto di vista dell'impresa, noi vogliamo una mediazione su questo. E intanto però sei ancora senza integrativo, cioè il contratto di secondo livello non è ancora stato firmato proprio sulla base di queste divergenze d'opinione. Ha capito, professor De Masi? Quindi ci sono vari elementi sul tavolo, va da sé che la cortesia ormai è una richiesta, diciamo così, da parte di un'utenza anche più sofisticata, questa del 2013, sulla quale non si discute, anche i sindacati sono d'accordo, però certe cose mal si digeriscono. Come si esce vengono fuori tutta una serie di cose. Anzitutto bisogna tener conto che il lavoro industriale era un lavoro fatto di bulloni, tot bulloni in tot minuti, si poteva contare tutto, era tutto determinato e formale. Il lavoro post-industriale ha ampi margini di informalità e quindi anche il sindacato deve abituarsi a questa maggiore flessibilità. Nel caso del front office, nel caso di persone che hanno a che fare con il pubblico, si può tranquillamente pretendere della cortesia, la quale si può giudicare, non è impossibile giudicare. Per quanto riguarda la cortesia poi, io non la farei dipendere tanto dalla formazione, che pure è importantissima, perché una persona non diventa cortese in poche ore di formazione, diventa cortese in tutta la vita precedente, nell'educazione familiare e scolastica. Quindi occorre selezionare per i rapporti con il pubblico persone diverse da quelle che si riservano per il back office, per il lavoro che non è in rapporto con il pubblico. Altra cosa, tutte le ricerche ci dicono che non c'è rapporto tra cortesia e paga, assolutamente no. Non c'è rapporto dunque tra cortesia e paga, questo è un nodo cruciale dove la fermo, mi chiedo scusa, ma dobbiamo controllare la situazione del traffico e torneremo proprio a parlare di questa relazione tra cortesia e salario. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Ancora buongiorno da Irene Zerbini, 47 minuti dopo le 9, 800 24 00 24, tra poco vi daremo ancora una volta la parola. Vorrei tornare però col professor De Masi, che abbiamo interrotto, sul rapporto, il nodo cruciale di questa discussione tra cortesia e salario e retribuzione. Lei dice sì, ormai nel lavoro post-industriale non si può giudicare qualcosa a margine, anche il comportamento, anche criteri diciamo così non quantificabili come un bullone, per esempio la cortesia che si adopera nei confronti del cliente. Attenzione, però, non si è agganciato al salario? Ho inteso bene quello che lei voleva dire, professore? Sì, no, in questo caso mi pare che l'aggancino come giusto non al salario ma alla parte variabile del salario. Sì. Comunque la cortesia dipende da due cose: da un'educazione lunga, familiare, scolastica, e dalla motivazione. Entrambi queste cose, tutte le ricerche dicono che non sono agganciabili al salario. Non è vero che se aumento il salario aumenta la cortesia, questo assolutamente no. È un errore arcaico che fa dipendere la motivazione dal salario, questo non avviene. Io credo, da quello che ho sentito, che comunque è talmente piccolo il pretesto del sorriso per scatenare questa battaglia, che significa che sotto c'è qualcosa alla Coop che non va. Vorrei poi dire infine al formatore che ha parlato che è imprudente agganciare il concetto di cortesia al concetto di corte, perché altrimenti le cassiere della Coop dovrebbero essere delle cortigiane e questo non mi pare bello. Questo è qualcosa dal quale allontanarsi. E dunque, lei è stato chiamato in causa, Francesco Mita Rotonda, responsabile didattico di Turnaround Management, questa società specializzata nella formazione. E lei aveva fatto una distinzione molto sottile tra cortesia e gentilezza, dicendo la gentilezza è un fattore soggettivo, la cortesia è come ci si comporta. Però attenzione, le cassiere non sono cortigiane. No, ma nessuno è un cortigiano quando è cortese. La cortesia è una cosa che può essere declinata ed è fatta da alcune componenti, che è attenzione agli altri, intensità alle esigenze dell'interlocutore, concretezza nell'affrontare la sua esigenza, una finalizzazione. La cortesia è una cosa molto concreta, è una cosa che le persone riescono a distinguerla. Quindi non è certamente associabile a un mondo da cui abbiamo preso soltanto un riferimento iniziale, però la cortesia può essere progettata, si condivide, si dice che cosa vogliamo essere, chi vogliamo rappresentare, come deve vivere l'emozione, se c'è da emozionarsi all'interno di un format distributivo il cliente, e quindi questa cosa può essere combinata, concertata anche con il contributo dei lavoratori. Ma lei che fa questo di professione, è mai stato chiamato da degli uffici pubblici a formare i dipendenti degli uffici pubblici, ci chiedono gli ascoltatori? Sì, io ho fatto formazione per gli uffici pubblici, lì si trova mediamente un po' più di resistenza, nel senso che siamo abbastanza abituati a chiamare i clienti degli uffici pubblici utenti, e quindi c'è più un lavoro di produzione interna che va verso tutti gli altri, quindi è indifferenziata l'offerta di servizi. E quindi c'è più resistenza da parte di chi lì lavora a farsi formare in quella direzione. Pierangelo, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Sì. Dica. Allora, niente, volevo dire, cioè, ho sentito un attimo quello che sta succedendo, no? Questa storia della Coppa. Io faccio l'autista da tanti anni, ho sempre fatto estero fino a 2 anni fa. E questo l'ho notato da anni, la differenza tra la cortesia, proprio la disponibilità all'altro, no? A quello che c'è di fronte, in Italia e all'estero. Cioè noi, anche se siamo il paese, bel paese, il paese della come si dice, della gentilezza, cioè guarda tutte le balle, roba vecchia, roba che trovi sì, in certi paesi, nel sud o cosa, noi ci siamo dimenticati che cos'è non la gentilezza ma la cortesia nel vero senso della parola nei confronti di un altro. Questo ce lo siamo dimenticati. Cioè lei, che va anche fuori spesso, dice che in Italia si sta peggio su quel fronte, la maleducazione ai negozi e uffici da noi è più diffusa. Sì, beh, negli uffici, quelli diciamo istituzionali, quello non ne parliamo, è storico, è atavico, è boh. Ma parliamo ad esempio autogrill, la cosa che io vedo tantissimo, autogrill, di negozi, però una cosa stratosferica, fermarsi in Francia, in Germania, ma la cura che mettono nelle cose, quando fanno le cose. Un panino in Italia, sinceramente, noi siamo i primi nel mondo per la cucina. Beh, quei panini dobbiamo imparare ad esempio dalla Germania a fare i panini, dall'Austria, come la cura che ci mettono e la non cura. La teoria. Siamo diventati sciatti. Ecco quello che l'Italia. Siamo diventati sciatti. Grazie Pierangelo. Molto interessante questa esperienza dell'autista. Chiamo ora in causa un altro formatore, presidente e amministratore delegato della Scuola Europea de Coaching Italia, Raquel Guarnieri. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ha sentito? La sciatteria è quello che sì. Spesso ferisce in questi discorsi. Sì, mi faceva proprio sorridere questa cosa. Sì, io sono d'accordo più che altro con l'ascoltatore della Spezia, credo che fosse, che parlava di autenticità, no, del rapporto. Perché il rischio, no, quando si fa questo tipo di formazione, di intervento, è che poi vengano, appunto, come dicono i lavoratori, standardizzati certi comportamenti, no? E questo non fa autentico poi il rapporto con il cliente. Sono d'accordo anche, no, col fatto che il cliente vuole essere accolto, vuole essere trattato bene. Io preferisco andare in un posto dove c'è cortesia piuttosto che in un altro dove non c'è, no? A parità di servizio. Senta Raquel, ma se lei viene da me, che lavora alla cassa di una Coop, 600 euro al mese, e mi trova demotivata e che non ho voglia di sorridere, come me la trasmette questa cura per l'autenticità? Come mi convince? Cosa mi dice? Innanzitutto ci sono le differenze individuali anche nelle formule di cortesia. Io credo che noi cerchiamo innanzitutto di generare una motivazione interna, quindi un commitment a fare questo. Dal mio punto di vista non si può obbligare una persona a sorridere perché è collegato con la motivazione estrinseca che è appunto lo stipendio, il salario, piuttosto che l'obbligo, no, a sorridere. Come la genero? Beh, sicuramente con quale può essere il vantaggio per lei a sorridere, no? O e quale sarebbe? Una relazione. Com'è? E quale sarebbe il vantaggio per me, cassiera, a sorridere? Beh, sicuramente avere una relazione con i clienti, avere anche un'emozione durante la giornata diversa da quella che dà quello di essere arrabbiati, no? Per cui anche un benessere poi interno, no? Non è la stessa cosa essere arrabbiati anche e trasmetterlo agli altri, che poi no? A volte soltanto entrando dalla parte del corpo, cioè sorridendo, posso modificare anche la mia emozione interna, no? E quindi è un qualcosa che genera benessere poi a noi stessi. Quindi siamo cortesi con i clienti nelle relazioni sul lavoro, perché i primi a beneficiarne non saranno solo loro, solo gli utenti finali, ma noi che per primo cambiamo atteggiamento. Eppure voi del sindacato, Alessio Di Labio, mi sembra di cogliere in questo contratto, in questo scandalo che siete riusciti a sollevare, ripreso anche dai media, vi siete preoccupati per questa richiesta di cortesia per l'aspetto discrezionale, come a dire quasi oggi richiedono sorriso, un domani questo stipendio a cosa lo si aggancerà? È così, Alessio Di Labio? Sì, l'aspetto discrezionale non era tanto per una preoccupazione per il futuro, ma un'oggettiva preoccupazione per il presente, cioè chi valuta chi. Come sappiamo, un luogo di lavoro è fatto di persone con rapporti umani, con simpatie, antipatie, con rapporti di contratto, di conflitto, non si possono trovare d'accordo per motivi personali o di lavoro. Quando singole persone hanno in mano il salario dei lavoratori, in una organizzazione del lavoro molto gerarchica, a nostro parere questa discrezionalità potrebbe essere un rischio. E quindi abbiamo provato anche nel confronto con l'azienda a capire come possiamo mettere mano a questa discrezionalità. Uno, correggendo alcuni parametri come quelli che oggi sono stati citati, ora sta diventando uno scandalo del sorriso, vi assicuro che al tavolo l'ultimo problema che abbiamo avuto è stato quello del sorriso quando si parla di salario dei lavoratori, ma ce ne sono stati altri, cioè il lavoratore che non accetta la valutazione come può, non dico impugnare ma contestare quella valutazione. C'era il problema comparativo, cioè le valutazioni non vengono fatte lavoratore per lavoratore, ma mettono in comparazione l'operato dei vari lavoratori. Da una parte questo ha il vantaggio di stimolare l'attenzione di chi, del valutatore, dall'altra però rischia di creare conflittualità tra lavoratori o comunque vi ha fatto suonare un campanello d'allarme. Se c'è l'eccellenza c'è anche il peggiore di tutti. Grazie naturalmente a tutti voi che avete partecipato. Alessio Di Labbia era l'ultimo, il professor Domenico De Masi, Francesco Mitarotonda, Raquel Garnieri e gli ascoltatori, su una tematica che ha come scenario la COP di Ferrara, ma che in realtà sarebbe potuta accadere un po' ovunque. Grazie da Irene Zerbini. Spunti di vista ritorna domani mattina alle 8:15.